tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat di Firenze e Radio Collegate di Bologna e Genova, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Ricordiamo il nostro sito www.giordanobrunomi.wordpress.com con motore di ricerca. Il calendario anticlericale 2021, info@sicilialibertaria.it. Iniziamo dalle disgrazie clericale. E 25 febbraio, morto Catricalà, suicida l'ex garante della privacy. Si è sparato un colpo alla testa sul balcone. Da giovane aveva studiato all'Istituto Luigi Sturzo di Roma. Ecco cosa insegnano nelle scuole dei preti. Abbiamo poi un altro suicidio in Germania. Si suicida un cappellano in pensione della diocesi di Colonia. Si è tolto la vita con modalità che nell'articolo non sono spiegate bene il 22 febbraio 2021. Comunque era inquisito per abusi sessuali. Abbiamo poi un altro suicidio clericale in un convento vicino alla stazione di Porta Principe a Genova. Leggiamo dal secolo XIX cosa è successo. È precipitata da una finestra dell'istituto Figlie di Nostra Signora del Monte Calvario, convento di suore, morta sul colpo. La vittima è una donna di 31 anni che era lì e si è trattato sicuramente di un gesto volontario. L'altra disgrazia dalla Gazzetta di Reggio Emilia, o addirittura un monsignore si è schiantato con la macchina e morto sul colpo il 30 gennaio 2021. Dalla Valcamonica a Cimbergo, una campana invece di suonare la gloria di presunto Dio Gesù Cristo, eccetera, è volata giù dal campanile e ha sfondato il tetto della sacrestia. E c'è sul giornale Valcamonica un'eloquente immagine della campana semidistrutta. Passiamo ai misfatti clericali. Accuse pesanti e circostanziate. Due religiosi rinviati a giudizio. L'imputazione tentata estorsione con modalità mafiose. I sacerdoti avrebbero costretto con la violenza un ristoratore a dargli una somma di denaro di circa 9.000 euro. Uno dei due si sarebbe fatto recapitare foto compromettenti della figlia invalida della vittima, eccetera, eccetera. Da cronaca vera del 25 febbraio. Abbiamo poi al San Pio X ambiente malsano. Al processo su abusi sessuali contro tre ex allievi e testimoniano appunto che in questo istituto annesso al Vaticano c'era un ambiente malsano pedofilo. Un ambiente malsano dove gli scherni reciproci a sfondo sessuale all'ordine del giorno. Abbiamo poi l'oca dell'oratorio diventerà un salame e gli animalisti denunciano Don Simone dal Quotidiano Nazionale del 25 febbraio 2021, pagina 16, a Villa Santa, vicino a Monza. Chiesti provvedimenti anche alla curia, questo allevamento omicida di questo prete ha dato scandalo. E sempre su lo scandalo del San Pio X in Vaticano, anche rainews.it, San Pio X in Vaticano, processo sui presunti abusi, il rettore sapeva e copriva, avanse toccamenti anche nelle parti intime, insomma tutto facevano tranne che pregare. Abbiamo poi... cosa è successo a Imperia? A Imperia, prete viola divieto spostamenti, multato. Andavo a confessarmi, ma non è una ragione perché ci si può muovere solo per giustificati motivi che non presentano. Tra questi non c'è la confessione. La giustificazione del prete non è bastata, multa di 400 euro, 24 febbraio 2021. A proposito dell'epidemia, dov'era San Francesco patrono d'Italia? Dov'era San Benedetto patrono dell'Europa? In realtà nessuno ci protegge. Anche Santa Caterina da Siena con patrona d'Europa, patrona d'Italia, sono tutti latitanti, non si fanno vivi, perché ovviamente Dio non esiste, i santi sono defunti e non possono fare niente per noi. Dal manifesto del 25 febbraio 2021 contro le donne. solo il 6% delle interruzioni di gravidanza è stato fatto con metodo farmacologico ad Ancona, Marche, Profondo Nero, abortire è quasi impossibile. Quasi tutti i ginecologi sono obiettori e insomma le donne gliene fanno di tutti i colori. Viva il libero pensiero, ora è sempre resistenza anticlericale. Passiamo sempre al manifesto del 23 febbraio 2021. Scusate, pagina 15, trasgressioni armate di una parola che rende sacra ogni violenza. Intervista allo storico Daniele Menozzi, autore di Crociata, storia di un'ideologia. E il mancato inserimento da parte di Giovanni Paolo II delle crociate nelle richieste di perdono e nel giubileo del 2000. Addirittura Benedetto XVI è poi peggiorato ancora. Le crociate sono un ingombrante retaggio della cultura cattolica. Segnaliamo un'infelice illustrazione del tutto sbagliata, vengono messi dei soldatini di piombo con l'abito dei crociati, invece di mettere qualche immagine delle stragi fatte dai crociati in Terra Santa. Riciclaggio. Siamo in Liguria, Genova. Vescovo Balestrero sceglie il patteggiamento. Accordo con pubblico ministero per la confisca di 7 milioni di euro sequestrati. Alla faccia della povertà. Va verso il patteggiamento l'inchiesta per riciclaggio ed evasione fiscale che vede coinvolti il fratelli Balestrero, alto prelato genovese, nunzio apostolico e il fratello immobiliarista. E quindi faranno questo, quindi riconoscono di essere colpevoli e fanno il patteggiamento. Dal manifesto del alias del 21 febbraio 2021 si parla dello scrittore francese Stendhal e ci sono dei riferimenti al malgoverno papale. Stendhal cosa dice? In un ufficio di uomini neghittosi, quanto più di lui, nella lugubre atmosfera dello Stato della Chiesa, il più gretto e retrogrado d'Europa. E poi si parla appunto efferatezza di un impiegato pontificio che sfotteva il Papa, si parla di queste satire contro Papa Gregorio XVI, di furti, insomma altri misfatti clericali sul manifesto. Su Rai 5 è stata messa la foto di un prete che cerca di fermare un'eruzione dell'Etna a Mascali, in provincia di Catania. Sì, allora il prete era proprio convinto che mettevo lì una reliquia o un'immagine di un santo, la colata lavica si fermava. Ovviamente non si è fermata e il paese di Mascali è stato distrutto e ricostruito successivamente. Dal Fatto Quotidiano del 22 febbraio. Teo Cone Clericali, i 90 anni di Camillo Ruini, il ton sturzo della destra di Berlusconi, oggi salviniano. E qui un articolo proprio tutto all'attacco di questo prelato cattivo. Abbiamo sul periodico Valcamonica emesse le motivazioni della sentenza per il crollo della croce che uccide un povero disabile locale camuno di nome Marco. Conferma, ma con leggera riduzione di condanna, a carico dell'associazione Croce del Papa, dicevo, è costituito dal comune e dalla parrocchia. Nel frattempo il parroco Don Stefani è morto e quindi non ha avuto la condanna. Nel giornale ci sono le terribili immagini di questa croce che è crollata addosso ai fedeli. Evitare le croci. Da Il Giorno del 19 febbraio 2021, clerico-fascismo, effetti dell'educazione clericale oratoriana. E c'è la foto di questo fanatico comandante dei vigili di questo paesotto che si chiama Biassono, che amava farsi riprendere con una divisa delle SS. E questo è l'effetto che, dell'educazione cattolica. E, ricordiamo che io stesso da giovane fui educato in questo ambiente oratoriano assolutamente anticomunista e filofascista. Allora, Giordano Bruno in televisione, è stato ipotizzato dal presidente della Campania, il Ministero delle Galassie, citato Giordano Bruno e perfino Campo dei Fiori, cosa rarissima che il nome Giordano Bruno è assolutamente epurato nella RAI. Viva Giordano Bruno, viva il libero pensiero, sia ad una scuola laica, sia alla scuola alternativa. Arrivederci alla prossima puntata del notiziario ateo anticlericale. Come il cielo, dalla casa madre ti separava, in bagaglio una pistola e un fazzoletto rosso e nero, la legge del taglione era allora solo tuo pensiero, era tempo della fame e le sommosse, che spari di cannone un milite represse, 29 agosto 1900, quel giorno in terra più di 100. La tua meta, un monarca è il tuo obiettivo. Poco più che a 20 anni dettavi allora il tuo destino. E forse 4 colpi, diverse son le storie, ma quell'uomo cadde al suolo, colpito in pieno al cuore. Era tempo di Merlino e Malatesta, delle gesta della banda del Matisse, l'epoca del cantico internazionalista. In quei giorni nessuno mai si arrese, ma era un tipo ad hoc, scuro nei capelli, col fare elegante, dai modi nobili e belli, lunghi baffi spessi, a collo un farfallino, passo cadenzato, perfetto taverino. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Piazza Beccaria, dovesti fronteggiare una persa giuria, ma scritta era la sorte di te degli ideali, il mondo ti era avverso tranne che pochi intellettuali. Era tempo quando poi nelle città si articolava sotto voce libertà, quando chi isolato in una fredda cella cantava addio Giuliano bella. Sua discolpa, nemmeno appare poi pentito. Io, Sua Eccellenza, non ho ucciso un individuo, ma null'altro che un monarca, quindi un barbaro principio. Era tempo di quando poi condannati a vita li attendevano lavori forzati, ma quel giovane toccò però la sorte del primo, dandosi alla morte. Scuro nei capelli, vuol fare elegante, dai modi nobili e belli, lunghi baffi spessi, a collo un farfallino, passo cadenzato, perfetto damerino. l'ultimo.